Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qua, buongiorno e bentrovati. Oggi puntatone speciale. Voi sedetevi in poltrona, rilassatevi, perché la trasmissione di oggi sarà da ascoltare e da gustare. Sarà un'occasione per parlare di noi, di voi, della vita, della fatica che stiamo facendo tutti in questi tempi di crisi, ma anche della capacità che ognuno di noi ha di resistere, di cambiare la realtà quando questa si fa dura e sembra quasi intollerabile. Insomma, oggi impareremo a trovare la nostra via d'uscita alle crisi, o way out, per dirla con il titolo dell'ultimo CD di un ospite che ci farà compagnia per tutta l'ora e che così spiega nel suo album il senso e il significato di questo nuovo progetto discografico. Ero alla ricerca non solo di un'idea per un nuovo album o di una canzone, ero alla ricerca di un modo di rivedere il mio fare musica, forse di guardare la vita da un altro punto di vista, soddisfare altre esigenze, dare altre risposte ad altre domande. Perché mi sono reso conto che non sono cambiate solo le risposte. C'è ancora un dubbio dentro di me che non si stacca. È ancora un po' difficile dire cosa succede. Del tuo fantasma, il tuo testimone, c'è ancora quella parte del tuo viso che non ha nome. Tu ti avvicini un poco più a me e non so dire che cos'è. Le pietre. L'avete riconosciuta perché la sua voce è inconfondibile. Ha tra l'altro cantato alcune delle canzoni più belle della storia della canzone italiana. E qui in studio con me Ron. Buongiorno. Ma che bello. Ciao a tutti. Senti, Ron, un CD, un progetto che va gustato piano piano, come un buon bicchiere di vino vicino ad un camino insieme agli amici di una vita. In fin dei conti è un po' così che questo CD anche per te. Sì, io probabilmente, chissà perché, quando ascolto una cosa che mi piace non ho un posto in cui sentirla, non ho un momento in cui sentirla, mi raggiunge ovunque. Può essere una canzone malinconica, una canzone allegra, una canzone spacca tutto. Ma per esempio per strada secondo me, quando cammini in mezzo alla gente, ascoltare, capisco i ragazzi che ascoltino musica in mezzo alla strada con le cuffiette, perché in fondo possono entrare in mondi veramente disparati, insomma, tra di loro. Non c'è bisogno che ascoltino solamente musica disco, musica funky, assolutamente, eccetera. No, probabilmente uno magari ascolta Imagine di John, certo, Lennon, capito? Anzi, ha una visione del mondo sicuramente migliore. Mi riferivo al piacere di degustare questo CD. Poi nei tempi io vedo gli amici, faccio il paragone del vino proprio per assaporare e cogliere tutte le sfumature, i profumi, il retrogusto. Ma qui in studio con me c'è anche Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, che ci accompagnerà e ci aiuterà a costruire un percorso emotivo e psicologico prendendo proprio spunto dalle tracce del nuovo lavoro di Ron. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno. Ciao. Ron. Buongiorno. Sono molto contento di essere con lui, che sai che, grazie, è proprio nella lista dei miei preferiti da sempre. Grazie. Alberto, nel preparare questa trasmissione, quando abbiamo avuto la possibilità di incontrare Ron, avevamo un'incertezza nella scelta del tema, devi saperlo Ron, perché da una parte ci veniva da scegliere la parola crisi, ma poi ci siamo buttati invece a capofitto nell'altra parola che era in ballottaggio, la parola resistenza, o addirittura resilienza. Direi che poi abbiamo scelto la seconda perché è una parola che incornicia perfettamente, penso, un po' tutto il progetto del nuovo CD di Ron. Secondo me perché è una parola straordinariamente in continuità con quello che Ron canta nelle sue canzoni, ma anche un po' con quello che è lui per la musica italiana, cioè un cantautore che ha scritto delle canzoni meravigliose per sé e per gli altri, che in questo progetto prende le migliori canzoni, ma non quelle famosissime, cioè bisognava proprio un po' andarle a scoprire e a trovare, le ha trovate bellissime e non le ha reinventate, le ha adattate tenendo la sensibilità, tenendo la ricerca sul testo, ma non ha inventato un quadro suo, ha proprio riletto per noi un quadro che era stato tracciato da altri artisti. E secondo me proprio anche di questi tempi dove ti arriva tantissimo l'effetto speciale, il boom boom, il suono forte, il suono facile, un profondo lavoro sulla sostanza e non sulla forma di una canzone. Ron, ti ci vedi in questo profilo di resistenza, metto tra virgolette, proposto da Alberto? Che cosa ha messo più in crisi eventualmente la tua capacità di resistenza negli ultimi anni, in questi anni, come riferiva Alberto, di grande trasformazione? Ma sì, direi che non è stato facile, perché io delle buone canzoni ce le ho nel cassetto, mie, nuove. Non mi andava l'idea che uscisse un disco di Ron e basta. Non mi andava l'idea che come facciamo noi in Italia, quando esce un altro disco di Ron, ok. No, volevo che uscisse un disco in fondo di uno sconosciuto, ma non lo sono. Purtroppo in questo caso sono una persona popolare che ha scritto tante altre cose prima, per cui mi sono chiesto da che parte avrei dovuto cominciare. Sono andato a cercare dentro al mio passato, a questi 43 anni di storia musicale, e ho capito che in fondo Una città per cantare era la canzone che in fondo mi ha dato più credibilità di tutte quelle che anche ho scritto, pur non essendo una canzone mia, una canzone che ha cantato Jackson Browne, ma è di Danny O'Keefe. I testi non li scrivevo ancora, per cui l'ha tradotta Lucio Dalla, Una città per cantare. Quando l'ho portata alla mia casa discografica mi ha chiesto Jackson Browne, perché non era assolutamente conosciuto qua in Italia. Però io dentro quella storia lì mi ci trovavo. Io sono sempre stato uno che non ha cercato di essere sul podio, ma in qualche modo attorno a qualche cavo dei musicisti, a cercare di fare un po' il falegname della musica, mettere a posto quello che in fondo poi alla fine fa stare in piedi le cose. E questo l'ho fatto un po' con la tournée di Banana Republic, no? Con Dalle De Gregori, facendo gli arrangiamenti, tutte queste cose qua. Un artigiano. Sì, mi sento molto così. E poi mi sento anche uno che in fondo è stato anche dimenticato in tutti questi 43 anni, perché c'è stato un periodo in cui io veramente sono sparito dalla circolazione, quando dal 72-73 in poi entrarono in ballo i cantautori con la K, cioè quelli che scrivono tantissimo di sociale, di politica anche. Io non scrivevo testi, pur avendo le mie idee politiche, e ti dico subito, cioè, che i cantanti come me, che venivano dal disco per l'estate, ho fatto Il gigante e la bambina, eccetera, per cui commerciali, quelli nazionali popolari, venivano messi al bando. E questo è. E Alberto, io volevo, per gli amici che ci stanno ascoltando da casa, l'idea, quando abbiamo un personaggio noto, qua Essere Benessere, è proprio cercare di prendere lo spunto dalla sua vita, dai suoi progetti, dalla sua resistenza, o in questo caso dal suo percorso di resilienza. E tu ce ne hai descritto, no? Hai avuto anche tu delle occasioni in cui hai dovuto proprio essere resistente all'abbandono, alla mancanza di popolarità, per mandare dei messaggi anche alle persone che, come noi, Alberto, quotidianamente non siamo sul palco, viviamo la nostra quotidianità tra mille affanni, con alcune soddisfazioni, alcune magoni. Ecco, quindi questo lavoro che stiamo cercando di fare con Ron è proprio per portare i nostri ascoltatori a riflettere su un percorso. Ma direi che lui, intanto, la prima lezione che ci dà su che cosa significa essere resistenti, essere resilienti, non lasciarsi travolgere dalla crisi, alla fine poi è proprio un percorso di ricerca, cioè lui ci dice: avevo il cassetto pieno di bellissime canzoni ed erano mie, ma in questo momento ho detto che cosa veramente voglio, voglio un po' prendere il contatto col mio punto di partenza. Lo avevo ascoltato tra l'altro raccontarsi anche in un'altra intervista, per lui ricerca proprio anche il significato partire, andare in terre dove non lo conosceva assolutamente nessuno, entrare in un qualsiasi club alla sera dove c'era qualsiasi genere di pubblico, prendere in mano la chitarra o mettersi non a piano, Italia. Non in Italia, e dire adesso canto io e canto in italiano, per esempio, vedere che cosa non gli... dicendo certo che era un cantante famoso italiano, certo. Posso suonare? Ecco, nella nostra quotidianità questo, guarda, questa ricerca pensi, di Ron, ad esempio, ha di sicuro un impatto ed è un esempio straordinario. Se io penso ai miei pazienti, quando mi raccontano sono in crisi, quello che scopro il più delle volte è che si sono proprio cristallizzati dentro un'immobilità che li fa semplicemente guardare a quello che è stato e a quello che non riesce ad essere più, e da lì non si muovono. Quella è la crisi ed è proprio stagnazione, stallo e non andare da nessuna parte. Fa soffrire come una bestia questa cosa. Esatto. Quello che ci dice lui è: io prendo, mi prendo, vado in giro, parto. Parto e vado a cercare. Vado ad annusare veramente, e in una città come New York, dove non puoi fare a meno di annusare, perché poi lì loro ci credono ancora. Ci credono veramente nel loro paese e nella possibilità di essere qualcuno e qualcosa, per cui quando vai lì già ricevi questi schiaffi, oh sveglia, bam, bam, bam, bam, fino a quando ti butti, poi trovi il coraggio di affittare una chitarra e ti butti in un locale solo di neri e canti per un locale solo di neri in italiano. Ecco, questa è la cosa, e la cosa mi faceva ridere da morire, perché tanto non mi conosceva nessuno, ma nello stesso tempo mi dava un'energia pazzesca. Alberto, è un percorso che tu suggerisci anche ai tuoi pazienti, naturalmente non di cantare, perché noi tutti siamo, non siamo Ron, quindi no, in generale... fare quello che dice Ron, un po' di schiaffi. Io direi che la legge è: esci dall'usuale. Se è l'usuale che ti ha portato dentro la crisi, non è dentro all'usuale che troverai la soluzione, quindi devi proprio andare a cercare strade nuove. E direi che un esempio concreto che ci mettiamo in marcia con la sua musica, una bellissima traccia dal suo CD Way Out, si intitola Ferma il treno. Ferma il treno, io voglio scendere, andare a casa, non reggo la sua velocità. No, io non. Per favore, qualcuno fermi il treno. Fermiamo, scendiamo e andiamo altrove. Appena partito e noi giustamente l'abbiamo fermato. E questo, Alberto, è l'esercizio che vogliamo fare, suggerire, soprattutto se ci sentiamo ingabbiati in un momento di crisi. Ma direi che darsi l'idea del movimento, di salire su qualche cosa che ci porta verso un'altra stazione, un'altra meta, un altro punto di arrivo, è sempre vantaggioso. Ron, mi chiedevo se è stato faticoso selezionare questi brani e adattarli alla nostra lingua, proprio per garantire che mantenessero lo stile e il significato delle versioni originali, e poi se qualche artista che tu hai così tradotto si è fatto vivo con te, ti ha detto qualche cosa. Ma intanto sì, è stato molto difficile non tanto tradurle dall'inglese all'italiano, ma quanto adattarle, certo. Poi, no? E a riuscire a dire un pochino le stesse cose. E, devo dire che lì ho imparato molto da Lucio Dalla. Mi ricordo che quando lui tradusse Una città per cantare, cercò di adattarla, avemmo degli scontri, ma proprio forti, perché io ero uno che non scriveva testi, per cui teneva tantissimo alla musica, e questa musica che mi arrivava era aria pulita per me, era questa canzone di Jackson Brown. Lucio invece andava proprio a sporcare, cioè in fondo noi siamo pieni di sdrucciole nella nostra lingua, e invece gli inglesi di tronche, per cui sono fortunatissimi in questo, no? Possono fermarsi lì quando hanno voglia con la nota. Noi dobbiamo, per poter dire una cosa dobbiamo allungarci, per cui anche modificare un po' la melodia. E io mi arrabbiavo con lui, ma senti, ti rendi conto che stai spostando la melodia, la stai facendo diversa? Lui fa: ma noi dobbiamo anche dire delle cose. E ho detto: lo so che dobbiamo dire delle cose, però caspita, cerchiamo di dirle in poche parole. Non si può a volte. E questa cosa io non la condivisi nel tempo. Poi quando Jackson Browne venne in Italia da me e facemmo un duetto, lui dice: sai, io non ho mai amato così tanto questa canzone, perché in inglese dice poco. E io ho provato a tradurgliela dall'italiano e lui dice: ma è molto più ricca. E quindi di significati. Aveva ragione Lucio. E così ho cercato di fare anche in questo disco. Ho cercato di dire le cose anche forzando un pochino la melodia. Direi che poi ti ha colpito che Ron litigasse con no, io credo che di nuovo con il grande Lucio, perché dallo scontro nasce poi sempre. Assolutamente. Se tu pensi che poi una canzone, in particolare questo genere di canzone, è prima di tutto emozione, trovi dentro una canzone lo stesso dilemma che noi abbiamo nella vita con il nostro mondo emotivo, cioè la fatica più grossa per le emozioni non è sperimentarle, perché si accendono in automatico dentro di te, ma è poterle condividere. E il valore grosso di un'emozione è renderla proprio, il terapeuta dice, intersoggettiva, cioè io ti devo far sentire quello che sento. E quella è la fatica di ogni persona, cioè se tu... poi è un adattamento, proprio come quello che ha fatto Ron con il testi. Io di... devo trasformare la mia emozione in parole che te la rendano comprensibile, a quel punto le mie parole te la fanno sentire. E tu non lo sai, carissimo Ron, ma in linea con noi c'è uno scrittore inglese di grandissimo successo che di solito fa un po' il contrario di quello che hai fatto tu in questo CD, ovvero traduce, ma dovrei dire adatta per gli inglesi, i capolavori della lingua italiana. È stato traduttore di romanzi dall'italiano in lingua inglese per autori come Moravia, Calvino, Tabucchi, Calasso. In linea con noi abbiamo il grande piacere di avere Tim Parts. Buongiorno. Buongiorno, salve. Che regalo grande! Appena pubblicato, sì, appena pubblicato Il sesso è vietato, romanzo della Bompiani, di cui parleremo naturalmente nel corso di questa intervista. Essere e benessere. Non guardarmi più, che cosa cerchi qui? Sto raccogliendo i miei pensieri. E mentre giurerai, da sempre già lo sai, ma niente durerà per sempre. Si è fermato il tempo, ma stiamo correndo sopra un mondo. Si è fermato il tempo, ma stiamo correndo. Ron, riprendiamo proprio questa frase, perché stiamo facendo questo percorso insieme ad Alberto Pellai, prendendo spunto dal tuo ultimo lavoro. Quando ci sentiamo in qualche modo intrappolati in un momento di crisi in cui non sappiamo dove andare, dobbiamo in qualche modo reinventarci. Si deve uscire, avere questa forza che poi è anche libertà. Sì, e direi che è proprio tra l'altro una frase che racconta benissimo anche la protagonista del romanzo di Tim Parks, perché Beth è una cantante come Ron. E si trova a lavorare in un centro di meditazione dove si ferma tutto, ci sono apparentemente regole molto molto rigide e dove tutti vanno un po' alla ricerca realmente di un cambiamento e di un nuovo modo di guardare la vita. Storie di resistenza molto originale, molto divertente, a tratti anche molto commovente. In fin dei conti la protagonista del romanzo, Beth, è anche lei una donna che sta combattendo una sua personale resistenza. Tim? Sì, Diciamo che è anche un posto dove non ci sono queste parole per esprimere le emozioni di cui si parlava prima. Una persona che ha sofferto così tanto per una serie di disavventure che cerca proprio di uscire dall'espressione e dalla narrativa totalmente in un posto dove non si parla. Ed è un posto che dove tutti apparentemente sembrano congelati, ma giorno dopo giorno il cambiamento succede, eh? La resistenza porta a qualche risultato. Tim? Sì, non so se sembrano proprio congelati. Effettivamente quello che succede in un centro di meditazione dove 150 persone stanno in silenzio tutta la giornata è che dentro ognuno c'è probabilmente un ribollire anche certe volte spaventoso, ma nessuno può rendersene conto perché non c'è nessuna comunicazione. Tutto è in silenzio. Sì, quasi tutto. Quasi tutto. Io volevo chiedere a Ron, che è aperto proprio con il potere della musica, i ragazzini, tu dicevi, ascoltano sempre la musica, noi possono ascoltare una serie di generi musicali diversi. Che rapporto hai, tu musicista, con il silenzio? Ah, meraviglioso. Io credo di essere... fortunatamente non ho mai avuto paura del silenzio. Primo perché vivo in una casa molto silenziosa e passo molto tempo in silenzio. Questo passare in silenzio il tempo mi dà la sensazione vera, reale di intanto di passare del tempo, nel senso che il tempo va avanti, come dice anche la canzone, questo treno che non si ferma mai, ma in qualche modo di riuscire lentamente a guardarmi dentro. Invece, Tim, attraverso il silenzio i personaggi del tuo libro che cosa riescono a recuperare o a ritrovare? Ma il silenzio è un silenzio mentale, è il silenzio che cercano di insegnare a un centro del genere, e il dissolversi della parola è una consapevolezza senza parola. Nel caso di questa ragazza si tratta di qualcuno che in un certo senso non vuole più avere una narrativa della propria vita, ma semplicemente stare nel momento vivendolo così. È una questione del libro, è se effettivamente questo è possibile e se è possibile, se è desiderabile. Credo che rimane uno dei dilemmi fortissimi, e di nuovo in psicoterapia questa è proprio una tendenza di lavoro, si chiama mindfulness e significa portare un paziente a stare nel suo qui ed ora, in qualche modo a vivere intensamente quello che sta succedendo nell'istante, non in una logica del carpe diem, ma in realtà nel non trovare così tanto nel suo passato, in un tuffo verso il futuro, il senso, il significato che non riesce a dare senso invece all'istante, all'adesso. Magari sono questioni un po' complesse, ma trovo che alla fine Beth è divertentissima, ci fa davvero davvero sorridere, ci guida un po' per mano in un percorso intricato dove poi lei trova la via d'uscita, la porta d'uscita, ed è molto interessante anche l'epilogo, quindi un bel romanzo che consigliamo ai nostri ascoltatori. Silenzio ma anche ironia per sdrammatizzare le difficoltà è sempre una buona cosa, Tim, e viene fuori dal tuo libro, no? Perché è un libro dove parla di silenzio, di meditazione, di questo luogo in cui le persone vogliono fare un cambiamento, ma è ironico, divertente. Ma la commedia sta nel fatto che questa ragazza rockettara, piena di sensualità, una persona che è sempre stato proprio dentro la vita in ogni possibile modo, cerca per un periodo di stare in un posto dove è vietato tutto. E anche la parola, la musica è vietata. Così c'è un costante cozzare tra il suo senso che tutto è assurdo in questo posto e poi l'idea che comunque ha molto bisogno di questo posto. Lei continua a trasgredire tutte le regole e allo stesso tempo vuole stare in questo posto con tutte queste regole. No, perché credo che poi Beth desideri poi la sua libertà, perché secondo me poi alla fine lì, insomma, una che si in qualche modo decide di chiudersi dentro a qualcosa che in fondo è stato diverso dalla sua vita fino ad allora, è perché vuole trovare anche una libertà che forse prima non aveva, che era solo apparente. A te mai capitato, Ron, di fare qualche cosa che era un po' contrario a tutto quello che potevi apparire, come potevi apparire tu? Sì. E quindi dire, come ci raccontava Tim, io credo di essere molte volte apparso diverso da come in realtà sono. Credo che la televisione dia questa... Io credo di non essere molto televisivo, perché la televisione mi fa sentire molto solo. Non so, mi dà un senso di solitudine e di imbarazzo totale. Per cui quello che io sono probabilmente non esce, fa fatica. La radio è un'altra cosa. La radio è un'altra cosa, è vero. Tim, abbiamo scelto un breve estratto dal tuo libro, lo sentiamo e poi lo commentiamo con te. Qualcosa è cambiato, mi sono detta. Mi sentivo calma, mi sentivo calmissima. Non avevo idea di che cosa avrei fatto nemmeno di lì a qualche ora, se sarei rimasta o me ne sarei andata, se mi aspettava un'altra chiacchierata con la signora Harper o con Minou, o se non mi avrebbero mai più rivolto la parola. Però ero calma. Anche il passato era lì, il mio passato. Proprio lì, nella sala da pranzo. Jonathan, Carl, Zoe, mamma, papà. Erano tutti lì, nel rumore che avevo in testa. Non erano stati eliminati, sepolti o dimenticati. Li immaginavo seduti al tavolo dietro di me, a parlare insieme. Come quella sera a Soho, o come le volte che Carl veniva a cena e parlava di pesca con papà. Erano tutti lì per la festa del 10° giorno. Ma la cosa non mi turbava. Non sentivo il bisogno di cacciarli via. Ero calma. Tim. Sì, questo personaggio, come ahimè tanti personaggi nei miei libri, soffre l'impossibilità di decidere, il senso di dilemma, il senso di blocco del futuro. Allora arrivare a un momento in cui nonostante che questo dilemma continui, lei comunque riesce a sentirsi davanti alle decisioni che deve prendere assolutamente calma e rilassata, è una novità assoluta per lei. È questo che cerco di esprimere in questo brano qua, è un momento di svolta nella sua storia. Da questo momento sarà poi libera di semplicemente agire quasi senza pensare. Il momento di svolta, torniamo qui. Grazie a Tim Parse per essere stato con noi. Ricordo il titolo del suo libro, Il sesso è vietato, Bompiani editore. Grazie Tim, a presto. Grazie, arrivederci. Buona giornata. Essere e benessere. Oddio, io non sapevo com'è difficile. Oddio, io non sapevo quant'è difficile, ma se ti abbraccio dimmi è vero, capirai per quello che sono, signore, ti sto preparando. Abbiamo parlato di un treno, che sì. siamo partiti da un treno e adesso ci stiamo preparando. La spiritualità per te che ruolo ha nella tua vita? Beh, da un bel po' di anni importantissima. Cioè, questi momenti di silenzio di cui ho parlato prima sono momenti che non potrei scambiare con nessun momento bello della mia vita, vissuto con gli altri, perché in effetti lì ho la possibilità di parlare con me stesso, ma in fondo parlo con Dio. E parlare con Dio per me vuol dire in qualche modo essere diverso, di essere unico anche, di avere un posto che ho sempre sognato, ecco, che è unico, ognuno di noi lo è, ma la mia unicità a volte non è che è un'unicità che vedono tutti, io so che lui vede la mia unicità. Senti, anche Lucio aveva un forte senso religioso. Sì, Lucio sì, era più trasgressivo Lucio, era uno, voglio dire, per esempio per me la messa è importantissima, perché mi dà la possibilità di assistere a delle, di leggere, di assistere a delle letture e di ricevere questo pane, che per me è il senso della messa, poi, no? Ecco, Lucio era uno che andava a messa, ma se non ci andava era anche la stessa cosa, insomma, ma non è che non ci tenesse, era no. Perché non la vedeva così una cosa per forza. Ci fu anche qualche discussione in questo. Mi ricordo che eravamo in barca con amici un giorno, non so se in Grecia, dove eravamo, e io mi feci con una barchetta non so quante ore per poter arrivare a una chiesa. E mi dice: ma tu sei pazzo completamente, ma se non si può, non si può. E io ce l'ho fatta. Per cui forse ero un po' bigotto io allora, però ce l'ho fatta, ecco, in qualche modo ho anche aderito poi a quello che avevo dentro. Un gesto di libertà, anche questo a proposito della non libertà, so se è un gesto, no? Di per libertà rispetto agli amici che magari ti dicono: ma no, stai qui, che cosa sei matto, che bisogno c'è in questo momento, perché poi è il contesto che ci fa fare questa. Adesso sono più libero però anche in questa cosa, cioè se capisco che non posso andarci, dico: ok, non si può stavolta. Per cui forse ero anche un po' troppo, perché poi ho avuto esperienze che mi hanno talmente tartassato e fatto del male, che mi hanno portato poi a diventare esagerato, ecco, come succede a tanti, insomma, credo, no? Sì, credo. Ritorniamo poi dal nostro psicoterapeuta, che secondo me da questa nostra chiacchierata chissà che cosa ci dice, non ci fa più incontrare. No, ma lui è fantastico. Ma intanto diciamo che la spiritualità è sempre una risorsa nella vita per chi sente di avere questa possibilità, per chi in qualche modo la coltiva, ma anche perché ce l'ha avuta in dono. Non è una cosa che ti puoi prendere dentro un libro, dentro un cassetto, però può arrivare nel corso della di vita. Di solito è proprio il risultato di una ricerca, è un po' mettersi in marcia, andare in un percorso, ed è incredibile vedere come tutte le ricerche proprio cliniche dicano che la spiritualità funziona come un fattore di protezione indipendentemente da qual è la religione in cui l'ha incorporata. Certo. Il secondo aspetto, secondo me, poi un po' che potrebbe essere il messaggio conclusivo, è che alla fine uscire da una crisi significa poter coltivare un senso di sé in sufficiente libertà, che è un po' quello che diceva, cioè sei su una barca, fai l'impossibile per arrivare in una piccola chiesa, quando sei in Grecia e poi scopri con la vita che ti puoi anche staccare, certo, da una cosa del genere, perché è rimani cresciuto te... il ragazzo, insomma, nel tempo. Vedi che anche tu sei maturato. E secondo me è una cosa bellissima, che un po' anche dentro era l'altra, c'è una dimensione oggettiva sulla resistenza nel CD di Ron, che è quella legata proprio ai testi che ha, sono tutti piccoli testi di storie di straordinaria resistenza, ma secondo me c'è una dimensione soggettiva, cioè il fatto che lui si è creato un progetto, aveva lo studio di registrazione proprio lì di fianco a casa sua, poteva fare un CD perfetto, suoni, cose incredibili. È rimasto lì seduto davanti al camino, aveva vicino le persone di cui sapeva di potersi fidare. Aveva persone che erano probabilmente anche amici, quindi aveva l'emozione, la relazione, la loro musica, che in parte è anche il loro mestiere, non è solo l'emozione. La loro passione. E lì hanno costruito questo piccolo scrigno. Ma addirittura, sai, mentre le ascoltavamo su YouTube delle canzoni, questa la mettiamo... Dal momento che diciamo questa la mettiamo, e allora sì, è forte, questa è bella, andavamo di là e la suonavamo, capito? Bello, una bella fortuna però anche, no? Sì, però voglio dire, secondo me la musica è questa, cioè, una volta si faceva così, adesso quindi siamo tutti dici... un po' più complicati, no? E il fatto di farlo in casa mia con qualche microfono, con i rientri di tutti eccetera, e poi ottieni una sonorità che è vera, perché poi alla fine abbiamo cantato e suonato in diretta, questa è la cosa fantastica. Quindi... mi piacerebbe andare a fare una puntata in diretta da casa di dai, Ron. Ma dai, ci volete... inviti? Come no, assolutamente sì. Veramente? C'ho un cane fantastico. Anch'io ho un cane magnifico, posso portarlo, così si incontrano. Io vorrei però tirare un po' le fila di questa nostra chiacchierata. Ormai l'invito ce l'abbiamo, sì, certo, l'abbiamo portato a casa, poi sai, io un attimo dire mi fermo. Comunque vorrei chiedere proprio a Ron, dato che ti abbiamo in qualche modo così portato dentro alla trasmissione come una sorta di coach, noi prendiamo spunto dal tuo lavoro, però ti diciamo va bene, dacci un consiglio. Abbiamo parlato di resistenza, abbiamo parlato di libertà, di ripensamenti, di ricerca. Allora, il tuo consiglio per i miei ascoltatori, che sono proprio una parte della mia vita a cui tengo in modo particolare, quindi pensa loro, e due consigli nel quotidiano che possono in qualche modo aiutarli, noi lo cerchiamo di fare ogni giorno, a vivere meglio. Insomma, io credo che quando uno riesce a dire la verità in qualsiasi modo, è comunque un modo per farsi del male, ma anche per togliersi delle pietre che ha dentro. Ecco, questa cosa dovremmo farla una volta al giorno, secondo me, perché ci mette nelle condizioni di sentirci debolissimi e anche un po' maleducati a volte, con cosa che siamo molto spesso, ma nello stesso tempo di aver detto quello che pensiamo. Alberto. Ma io terrei proprio un po' lo slogan che c'è dentro al titolo del CD di Ron, cioè Way Out. Se io penso a chi sta dentro una crisi, come mai non riesce a venirne fuori, è perché tutte le volte che pensa all'uscita, al fatto che c'è una porta che puoi aprire, puoi ritornare dal buio alla luce, ti risponde no, quella porta per me è stata chiusa, è stata distrutta, non c'è modo. Invece... E in realtà siamo veramente circondati da porte, da vie d'uscita, cioè è interessantissimo anche nella relazione con un terapeuta, un paziente molto disperato, depresso, tu sei lì, sei proprio pronto con una relazione, che è vero che ha un costo, però gli dici ma noi insieme la luce la troviamo, la cerchiamo se ci mettiamo in cammino, e lui ti risponde no, per me non c'è via d'uscita. Via d'uscita c'è per tutti, bisogna alzare lo sguardo. Questa è l'altra cosa che a me piace, se tu guardi questa copertina è proprio uno sguardo che guarda avanti e c'è una mano sul cuore, per cui... Chiudiamo con questa immagine, con sguardo avanti, mano sul cuore, lasciate parlare il vostro cuore e siate liberi. Ron, possiamo dire così? Assolutamente sì. Grazie Ron per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie, è stato bello. Grazie ad Alberto, e noi come sempre ci sentiamo domani, dopo il GR delle 11. Buonissima giornata da Nicoletta. Essere e benessere.